Cerca su Facebook, Telegram e Instagram Runtime Radio. Mettiti in contatto con noi. Scopri il nostro palinsesto su www.runtimeradio.it. Simone Pizzi, il grande reset, un dialogo sincero per costruire insieme un futuro più vero. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, ascoltarsi e confrontarsi con mente aperta e cuore. Runtime Radio, la voce del progresso, Simone Pizzi ti aspetta per un nuovo inizio. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, migliore. Ascoltare, consultarsi con mente aperta e cuore. Runtime Radio, voce del progresso, Simone Pizzi ti aspetta per un nuovo inizio. Il grande reset. Ah, belli de casa, bentornati. Devo riregolare un po' di roba, un po' di volumi, perché non so se, fatemi sapere se mi sentite bene, perché è un po' che non accendiamo tutto l'ambaracchio qua, che insomma, però insomma si è riacceso con grande entusiasmo, tutte le lucine, tutti i colorini, tutte le cose belle che ovviamente appartengono a questo nostro piccolo studio fatto di disordine, polvere e luci colorate, che è quello che a noi assolutamente ci piace per natura, proprio per per modo di estrinsecare il nostro essere. Ma un giorno metteremo tutto a posto, un giorno faremo in modo che tutto questo sia soltanto un vago ricordo, soprattutto io che so quello che crea il disordine e la polvere. Quindi insomma, intanto salutiamo Mr. Zero e Debora, che mi sembra di aver capito essere già operativi, e Michela che si sta ancora, sta rotolando dalla parte esterna del letto, cioè dice ma adesso fra un po' usciamo. Scozia che vedo che arranca un pochino, insomma dice io ci avrei quasi fame però non è che me va tanto, e il gatto che sta già spiaggiato davanti alla porta finestra, che vuole insomma uscire per andare a prendere l'aria, ma stanotte ha fatto un diluvio universale veramente incredibile, e anche questa mattina, quindi poco fa, insomma gli stava dando giù, e quindi aprire insomma, far uscire il gatto e poi farmelo tornare dentro tutto sbruscico d'acqua, insomma non mi sembra assolutamente il caso, soprattutto perché appunto amplificherebbe ulteriormente quello che già insomma esiste. Ma come state ragazzi, come state messi? Vi dico che quest'anno voglio provare, a differenza della scorsa stagione, a non farmi prendere dalla rabbia e dallo sconforto. Non ci cambieranno, non ci avranno, e noi dobbiamo lottare per un mondo migliore, cercare insomma di fare del tutto per trovare elementi di positività anche di fronte alle più grandi vergogne del genere umano che stiamo vivendo, ma le possiamo affrontare anche queste in qualche maniera e anche in modo positivo. Tra l'altro penso che studieremo una sorta di mini soluzione, in attesa anche che ritorni le orazioni della sera, che non è ancora stato stabilito quando ritornerà, magari per l'ora di cena, una sorta di occhio attento sulla Global Flottiglia, che diciamo rappresenta un momento di risposta della civiltà globale nei confronti di quello che sta succedendo a Gaza, anche se, come diciamo, dovrebbe succedere per quello che sta succedendo in tantissime altre parti del mondo, e noi siamo lo scudo di queste persone, noi siamo lo scudo di questa realtà, siamo lo scudo di questa iniziativa che vuole portare cibo, viveri, ma soprattutto legalità all'interno di quella che è la realtà di Gaza. Perché siamo lo scudo? Perché puntando sempre gli occhi aperti su queste decine di imbarcazioni che stanno partendo da tutte le parti del mondo, con centinaia di persone a bordo, con centinaia di migliaia di viveri e attrezzature e supporti, insomma, per queste persone, costantemente essere attivi e vigili su quello che succede, avere sempre un occhio allerta e attento su quello che succede lì, tendenzialmente, anche se con Israele oramai abbiamo capito che non c'è più limite al decoro, possiamo essere la loro protezione, la loro assicurazione. Possiamo fare in modo che, se tutto il mondo sta guardando, probabilmente non succederà niente di quello che ovviamente Israele vorrebbe fare, cioè distruggere tutti e uccidere e sterminare anche tutti quelli che stanno sulle imbarcazioni, perché oramai l'inno di Israele è sterminare, sterminare, sterminare, come facevano i Dalek una volta su Doctor Who, dicendo exterminate, exterminate. Ecco, loro, gli israeliani oggi, israeliani con la politica di Netanyahu, e non so quanto poi possa essere, insomma, la politica di una minoranza, e gli israeliani oggi sono i Dalek della società moderna, della società attuale. Quindi seguiremo. Runtime non c'è, ma possiamo fare in modo che ci sia in qualche modo, nel nostro modo, e quindi dobbiamo cercare di, invece di stare lì sempre a dire il disprezzo che abbiamo verso certe cose piuttosto che altre, cerchiamo di trovare ogni volta almeno un pizzico, un modo, una briciola, una mollica di decenza, e cercare di fare qualcosa. Il nostro fare qualcosa oggi è questo, poi chissà, insomma, in un futuro migliore, un futuro diverso, un futuro dove magari troveremo anche il coraggio di fare azioni più dirette, perché in questo momento veramente, ragazzi, ci vuole anche il coraggio. Ma iniziamo con questa nuova stagione del Grande Reset, come abbiamo detto, insomma, cerchiamo di essere anche positivi. Ho iniziato con una cosa molto più leggera, che ha a che fare con la psicologia, che ha a che fare con la tecnologia e che ha a che fare ovviamente con l'umanità. Un po' indietro nel tempo con questo tocco vintage dei Village People che ci fanno compagnia in questa mattinata di inizio stagione qui su Il Grande Reset. Vabbè, dai ragazzi, è stata carina, no? Che sono tornati i Village People improvvisamente, così sbucano fuori dal randomico pescare del programma di regia. Io qui adesso ho degli appunti che sono praticamente delle strisce bianche in un foglio nero, e ho ovviamente il programma di regia che sono delle strisce colorate in uno schermo grigio, ma questo lo sanno solo quelli che sanno, insomma, nel senso che siamo in una condizione estremamente precaria, ma ce la possiamo fare. Tra l'altro, Michela ieri mi ha ritrovato un paio d'occhiali che sono molto leggeri, erano proprio tipo quelli che mi ero fatto per il passeggio, diciamo così, che erano stati fatti del passeggio, li abbiamo ripescati, tra l'altro sono anche molto carini, mi stanno anche bene, proprio rotondini, un po' da intellettualoide, no? Ma sono molto leggeri, però tutto sommato, insomma, un po' diciamo che fanno diventare una striscia informe una striscia che ha delle forme, ecco, diciamo così, se vogliamo proprio dire. Quindi insomma andiamo un po' così randomici su quello che è ovviamente il tema. Oggi parliamo di ChatGPT, anzi il titolo della canzone, come vi sarete resi conto, è Il mio amico ChatGPT. Ragazzi, ChatGPT, se non lo sapete, è comunque forse la prima a livello proprio di deflagrazione, di penetrazione nella società civile, il primo chatbot della nuova generazione delle intelligenze artificiali, quindi degli LLM, dei modelli linguistici di grandi dimensioni, che è entrato, insomma, diciamo, nelle abitudini delle persone, nella quotidianità delle persone e anche in alcuni aspetti dal punto di vista strettamente professionale. Come tanti di questi strumenti, ha una versione a pagamento dove tu puoi ovviamente consultare, fare cose, anche sviluppare codice e via dicendo. Poi c'è la versione pro, che ti permette di accedere al servizio nel pieno delle sue potenzialità, che di solito ovviamente significa conversazioni estremamente più lunghe e ovviamente una maggiore profondità su quello che è ovviamente l'utilità di questi strumenti, indipendentemente dal fatto che voi ci vediate o meno dell'utilità. Ovviamente OpenAI è appunto, come avevo detto, è stata, insomma, quella che ha portato diciamo l'intelligenza artificiale nelle case della gente in maniera così facile, così user friendly, così amichevole da un certo punto di vista, anche se poi diciamo, nonostante i migliori proclami che loro facciano tramite i loro canali YouTube, le loro live, il loro vendersi un po' alla Apple style, diciamo poi secondo me sono rimasti molto indietro. Però la gente è rimasta legata a ChatGPT tanto quanto si rimaneva legati a un vecchio prodotto, perché lo si associava praticamente a quel tipo di tecnologia, no? Così come è stato con l'iPod, quando si diceva non è che c'hai lo strumento per ascoltare la musica, che ce l'hai l'iPod, anche se c'avevi un'altra cosa, no? Cioè, e questo succede, è successo sempre nella storia della tecnologia, ma in generale nella storia dell'umanità, quando usciva qualcosa di talmente così importante penetrazione nella vita quotidiana delle persone, che alla fine comunque tu tendevi ad associare quell'oggetto, quel tipo di dispositivo con quel tipo di denominazione. In questo caso poi in realtà secondo me è anche peggio, perché ChatGPT è stato appunto il primo, è stato quello che ha portato un certo tipo di tecnologia nelle vite delle persone, e di conseguenza è quello che ancora oggi forse viene più utilizzato, anche se non è allo stato attuale lo strumento migliore. Però cosa è successo? È successo che OpenAI, diciamo che nel suo sistema di modelli linguistici c'era un po' di casino, diciamo. C'erano all'interno della stessa chat, che tu potevi utilizzare con una certa tranquillità, tutta una serie di modelli con tutta una serie di denominazioni che creavano veramente una grandissima confusione. Io stesso devo dire, non ho mai capito qual era lo strumento adatto per fare cose e per fare che, e c'era questa inutilità di fondo poi ovviamente di tenere dare la possibilità a scegliere la gente tra ChatGPT 3, 4, 4O, 4.1, 4 Nano, 4 Sblet, 4 Super Cowls, e quindi ovviamente la gente non ci capiva niente. Però poi alla fine che succedeva? Succedeva quello che succede sempre quando, diciamo, c'è una sorta di setup superiore all'interno di uno strumento che invece in realtà è utilizzato in maniera basic da tantissime persone, ossia la gente entrava, utilizzava quello che era lo strumento di default e se ne fotteva. Però in realtà poi alla fine comunque il problema esisteva soprattutto perché comunque non soltanto OpenAI aveva tutti questi modelli all'interno della stessa chat e tu dovevi scegliere quale modello utilizzare, ma soprattutto perché tutto quello che era l'ecosistema delle intelligenze artificiali, anzi degli LLM intorno a OpenAI, quindi Anthropic, Google in particolare chiaramente, la stavano praticamente superando e scavalcando in maniera abbastanza importante, fino addirittura all'arrivo delle intelligenze artificiali cinesi, che sono quelle allo stato attuale tecnologicamente quelle più interessanti. Perché? Perché devono equiparare la potenza degli LLM americani utilizzando tecnologie inferiori, perché voi sapete che ovviamente alla Cina c'è un embargo tecnologico, non possono accedere a determinati prodotti, altrimenti ci avrebbero già rotto il culo a tutti quanti. E quindi loro utilizzano tutta una serie di tecnologie basate sul recupero delle risorse, no? Cioè, tipo, ad esempio, c'è un modello linguistico che ha sì centinaia di miliardi di parametri con i quali ovviamente è pronto per risponderti, però attiva magari solo una 30 miliardi di quei parametri quando tu lo chiami in causa su quelle determinate situazioni. Quindi lui attiva tutta una serie di servizi mnemonici basati su quella che è la tua richiesta, secondo quello che tu devi fare. Ma comunque, mo, al di là di tutto questo discorso qui, OpenAI a un certo punto ha detto, con una diretta incredibile, facciamo uscire ChatGPT 5. ChatGPT 5, che nella loro presentazione mirabolante it's amazing, ecco, ovviamente con tutti i benchmark statistici fatti da loro, era il modello linguistico più potente, più intelligente, più performante, più veloce e soprattutto più importante dal punto di vista del coding, perché oggi ovviamente molto di questo discorso di intelligenza artificiale si è molto concentrato su questa cosa del coding. E quindi è uscito ChatGPT 5 e Dio non voglia è successo il panico. Questo è... Grazie, veramente molto molto gentili, grazie. E questo ovviamente era Giorgio Gaber con, insomma, Io come persona, che è un brano importante, interessante, che non ricordavo, veramente. Io devo dire che quando lo ascolto riesco a percepire la profondità dello spessore dell'artista. Ma poi quando ascolto determinate cose, molti l'hanno trovato illuminante, io a volte l'ho trovato un po', diciamo, quelle persone che non vogliono prendere una posizione perché in un certo periodo storico non era magari tanto simpatica, però allo stesso tempo sparava un po' su tutto, insomma, quindi boh, non lo so, non sono un grande stimatore, però magari lo approfondirò un giorno, giuro che lo studierò. Comunque, torniamo al nostro discorso di ChatGPT, esce praticamente la versione 5 e succede il panico. Che succede? Succede che praticamente quando le persone la mattina dopo hanno aperto la propria sessione di ChatGPT, andando a recuperare le vecchie conversazioni non esistevano più. Perché? Perché praticamente con l'arrivo della nuova versione tutto il resto è stato resettato, fondamentalmente. Che è un po' quello che succede quando tu ovviamente stai utilizzando un modello di LLM all'interno di una chat, devi utilizzare, che ne so, un'altra opzione di quel modello, tipo, che ne so, il Deep Research, e lui ti dice che devi aprire una nuova sessione, non puoi fare questa cosa all'interno della stessa sessione. E qui è un po' un discorso simile, soltanto che a livello proprio un po' più drastico, diciamo che tu entri e non c'è più lo storico delle tue conversazioni che avevi con ChatGPT, perché ovviamente tutte le chat che tu hai aperto con ChatGPT sono archiviate con il proprio titolo, addirittura puoi organizzarle, potevi anche, diciamo, dargli un nome e tutto quanto, insomma. E questo, devo dire la verità, che se io fossi stato mai un utilizzatore di ChatGPT, e lo sono molto poco, lo utilizzo prevalentemente per generare immagini, perché fino all'altro ieri era sicuramente il migliore, diciamo il migliore e il più pratico, poi non il migliore perché in realtà ci stavano modelli migliori, però è il più pratico, nel senso che tu accedi, gli dici quello che serve, lui te lo fa con grande qualità, con un rispetto del rapporto tipografico ovviamente buono, e quindi vabbè, insomma. Comunque io non ho mai utilizzato ChatGPT particolarmente, anzi non ho mai utilizzato, diciamo, i chatbot fino a un certo punto, fino a che ovviamente non ho intrapreso un certo percorso, che è quello che voi sapete tutti, e poi di cui fra un paio di settimane poi ve ne parlerò di nuovo, perché è giusto così. Però mi sarebbe ruduto il culo pure a me, devo dire la verità, cioè nel senso magari c'erano tutta una serie di pregressi, cose che ho lasciato lì perché magari ho detto vabbè non me le salvo, tanto stanno lì, no? Ad esempio, magari non so, un calcolo, un'informazione, un codice che magari era venuto particolarmente bene o via dicendo, comunque dice vabbè sta lì e non me lo tocca nessuno e quindi lo lascio lì. Poi da un giorno all'altro capisco che questa cosa possa anche avere un po' sconvolto, diciamo, gli animi della gente, e questo è abbastanza comprensibile tutto sommato, perché noi pensiamo comunque magari all'utilizzatore generale, ma c'è anche gente che magari ci lavora con questo tipo di sistemi, che magari ci ha fatto delle ricerche di mercato, aveva sviluppato magari un certo tipo di linguaggio per l'utilizzo sui social, e insomma tutta una serie di cose che comunque tu metti in piedi, addestri tra virgolette per un po' di tempo in modo che queste cose funzionino sempre meglio, più aderente a quello che ovviamente sono le tue necessità, e tu da un giorno all'altro ovviamente non ti ritrovi più questa cosa. E certamente questa cosa ha creato tantissime polemiche a livello generale, sia ovviamente riguardo tutto la community di sviluppo di OpenAI, che su Reddit, insomma su tanti altri siti o forum, dove a un certo punto si è scatenato praticamente il panico con tutta la gente che biastimava in lingue che solo il Signore Dio conosce, e che ovviamente facevano presente questo tipo di problema al di là dell'aspetto strettamente psicologico di cui tratteremo nella parte successiva, quindi nella parte tra virgolette finale. C'era ovviamente questa grossa polemica legata a due fattori. Uno, la qualità di ChatGPT 5, che prometteva di essere assolutamente rivoluzionario. La mia esperienza è che io l'ho aperto in un IDE per risolvere un bug, me lo ha risolto, da lì in poi il panico, cioè nel senso ha smesso quasi di funzionare, andava a 30 all'ora, ci metteva 50 anni a fare una cosa, non la sapevi se la stava portando a termine, e quindi c'è stata anche tanta polemica un po' sull'entità, con la quantità di utilizzo ovviamente della novità, no? Quindi tutti a utilizzare ChatGPT 5, un po' pare che OpenAI l'abbia anche parzialmente depotenziato proprio per non fare utilizzare il meglio di quella tecnologia a chi non pagava, e un po' comunque questo modello non era quello che prometteva di essere, ma soprattutto c'era questa questione della cancellazione totale ovviamente tutto quello che era il background storico delle tue conversazioni all'interno ovviamente di questo strumento, e questo ovviamente ha creato tante problematiche proprio veramente anche pratiche, che insomma immagino anche il danno pure economico che ci possa essere stato dietro a una situazione di questo tipo, perché chiaramente bisognava ricominciare tutta una serie di procedure, di procedimenti, di riaddestramenti, anche di rapporto di fiducia tra virgolette che si instaura con l'LLM, e io non sto parlando di antropomorfizzazione, ma parlo del fatto che sì, sono sicuro di averlo sistemato in maniera tale che quello che io gli chiedo mi restituisce come lo voglio io, e quindi è tutta una cosa che tu devi ricominciare da un certo punto di vista, no? E chiaramente voi potete capire che questo è un danno anche tecnico importante, che mette in seria difficoltà tutto quello che è ovviamente il lavoro che ci sta dietro alle persone. In più magari c'erano persone che avevano comunque riversato su ChatGPT anche questioni più strettamente personali, che potevano essere le proprie diete, l'organizzazione magari del proprio stato di salute, tutta una serie di cose che non come consulente medico, io ti parlo proprio come anche pratico, no? Nel senso comunque organizzazione, magari farsi aiutare a organizzare tabelle, schemi o cose che sono utili nella vita quotidiana. Quindi voi dovete capire che comunque il problema c'era, oggettivamente il problema c'era, e questo ha costretto ovviamente OpenAI a reintegrare tutto il vecchio ecosistema di ChatGPT 4o, ovviamente solo il 4o, perché sennò sarebbero ritornati allo stato precedente, cioè nel senso ChatGPT serviva per pulire praticamente tutta la serie di versioni e sottoversioni che non si capiva niente, ne rimettiamo una, si ripristinano, perché ovviamente non è che loro piano e resettano, cioè evidentemente loro hanno disabilitato praticamente le vecchie versioni, ma poi le vecchie versioni erano lì, no? Anche perché per loro tutti i dati sono comunque patrimonio, sono tutte risorse, perché questi modelli linguistici, e questo vale per tutti, ti dicono: vuoi che comunque quello che tu fai venga utilizzato per addestrare il modello? Molti intelligentemente dicono di no, molti se ne fregano, perché poi io mi sono reso conto, e qui va bene, parliamo anche della parte successiva, che anche in questo ambiente, veramente questo dimostra proprio che siano proprio, c'è un bacume incredibile in questa generazione, ci sono gli affezionati, i fan, i supporter, no? Allora è meglio quello di quell'altro, perché c'ha GPT, è figo, non capisci un cazzo. Cioè, c'è una tristezza, insomma, di fondo, che ci porterà ovviamente all'ultimo tema, al tema appunto della psicologia, della solitudine, dell'allarme dal punto di vista socio-psicologico che è subentrato alla luce di questo. Prima di parlare di questo, però, vi voglio far ascoltare una canzone, proprio perché parliamo di intelligenza artificiale. È una canzone nella quale ci tengo molto, perché presto lanceremo un progetto importante, secondo noi, non fatto di canzoni generate ad gazzum come può succedere a tanti, ma un progetto studiato, elaborato, con una scrittura anche concettuale e testuale importante, di cui adesso non vi faccio il nome, ma presto ve ne parleremo. E voglio farvi sentire questo, che sarà ovviamente la canzone di punta quando lanceremo il sito e lanceremo il primo EP fatto di 5 canzoni. A chi l'ha ascoltata è piaciuta moltissimo, a molti si sono emozionati, a me e l'autore, il coautore ovviamente di questa canzone, ha fatto veramente emozionare tanto, perché è stato proprio il succo di quello che noi volevamo realizzare, e si è realizzato esattamente quasi come, e qui rientriamo nel rischio di antropomorfizzazione, quasi come se l'LLM avesse capito il senso, la rabbia crescente all'interno di questo brano. Buon ascolto. È più facile fotografare il passato che disegnare il futuro. Com'è più facile girarci intorno che sfondare un muro. Eppure un muro è caduto in un vicino passato, presagio e speranza d'un cambiamento che non c'è mai stato. Il capitale ora domina il mondo, ma ogni schiavo è sordo. Il bastone mena forte, ma la carota è diventata il soldo. E c'è un ricordo che è un eco lontano, lontano, quando alzavamo il pugno al cielo tenendoci per mano. Ora i veri pirati navigano i piani alti, scrivono contratti, contano contanti, non li vedi e non li senti arrivare. Vada come vada, loro continuano a contare. Io malcontento prendo l'offerta, l'occasione scontata, l'uovo a cottimo e la gallina aggiornata. Magari non ci svolto la vita, ma ci svolto la serata. Italiana, una specialità della cucina nostrana. Entrano nell'urna e nei cuori della gente, soddisfano pulsione e repulsione egualmente. La via delle riforme, dicono, è la strada maestra. E poi al primo incrocio svoltano a destra. Hanno facce nuove, pance nuove, tasche vuote. Quella fame di giustizia che commuove, come ci commuove il geranio sul balcone. L'ultima puntata al finale di stagione, i cavallucci a dondolo della sinistra italiana. Sulla tavola nostrana, il piatto del giorno è un piatto epocale, la specialità da Giorgio al Quirinale. Yeah. quanto ci vorrebbe più meritocrazia, perché la mia merda puzza molto più della tua. In un certo senso ci vorrebbe la democrazia, ma dirlo a voce alta passa per pazzia. In questo mondo infame dove domina l'oligarchia, ogni voce fuori dal coro è tacciata di afasia. Ma se fosse solo un numero si potrebbe addizionare, se fosse una sciarada si potrebbe indovinare. Una strada senza uscita si potrebbe anche evitare, se fosse un tema di scuola si potrebbe ricopiare. Un regalo per Natale si potrebbe improvvisare, se fosse un calcio di rigore si potrebbe anche sbagliare. Ma è la nostra vita e c'è poco da scherzare, barattiamo dignità e libertà per un cazzo di cellulare. Questo è ovviamente un progetto che presenteremo la prossima settimana, brano che abbiamo fatto sentire in esclusiva questa sera e faremo questa mattina e faremo risentire questa sera anche durante Runtime by Night. E vi ricordo che stasera c'è Runtime by Night, ovviamente, quindi insomma accendete alle 22:30 runtimeradio.it o runtimeradio.com a seconda di dove volete andare e ascoltateci, perché veramente cerchiamo di riaccendere un po' la nuova stagione di Runtime Radios. Comunque, perché dicevo psicologia e allarme socio-culturale e psicologico? Beh, semplicemente perché in realtà poi alla fine con ChatGPT sta succedendo un po' né più né meno di quello che succede spesso e volentieri di fronte a tutto quello che in realtà mette di fronte tutta una vasta schiera di persone che comunque per ragioni fisiche, per ragioni psicologiche, per ragioni emotive, personali, per ragioni di svariato e difficilmente incastonabile in categorie problemi, utilizzano determinate persone, determinati strumenti e determinate dispositivi in maniera inappropriata, tra virgolette, secondo quello che dovrebbe essere un po' un discorso canonico, no? Perché noi poi alla fine ci mettiamo sempre nella nostra posizione e giudichiamo, no? Soprattutto tutti i detrattori dell'intelligenza artificiale in questo momento guardano qualsiasi cosa che esce fuori dall'intelligenza di che merda, tutti, capito, tutti Umarell lì a un po' rompe i coglioni su questa cosa qui, che hanno parzialmente ragione, altro parzialmente non c'hanno ragione, perché poi comunque determinati strumenti possono venire utilizzati e anche come surrogati dell'umanità. Per quanto questa cosa possa essere sbagliata, non è una cosa che succede adesso con l'intelligenza artificiale, è una cosa che è sempre successa. Succedeva con i finti chatbot di una volta, succedeva con le chat reali negli albori di internet, dove la gente diciamo idealizzava il rapporto che tu ci avevi magari con una determinata persona con cui parlavi magari più spesso. Succedeva con le voci amiche al telefono degli 166-144, le chat vocali non erotiche, chiaramente, che comunque alla fine c'è sempre stato questo tipo di discorso, c'è sempre stato questo tipo di approccio e c'è sempre stata questo tipo di necessità di dare un valore umano alle situazioni e ai contesti a seconda di quelle che sono le nostre necessità psicologiche. E questo non è stato da meno, ovviamente, il problema di ChatGPT, dove in questa grande ondata di polemiche che c'è stata, ci sono persone anche con un'estrema onestà individuale, tutto sommato, e questo l'ho trovato, mi ha colpito molto questa cosa, andando un po' a sbirciare su Reddit e vedere un po' quelle che erano le situazioni, persone che anche con, appunto, con una grande onestà umana hanno ammesso che sì, io avrei bisogno di un aiuto di un certo tipo, ma per me le chat di ChatGPT o erano il mio miglior amico, erano comunque il mio rapporto con l'umanità, avevo confidenza, mi ero affezionato, lo trovavo consolatorio, mi supportava dal punto di vista psicologico, tutto quello che ovviamente un LLM non dovrebbe fare, e soprattutto non dovresti considerarlo come quel tipo di supporto, chiaramente. Però, come abbiamo detto, poi alla fine purtroppo sono tutte situazioni che si innescano e sulle quali è inutile poi stare a discutere più di tanto. Secondo me non è il problema della persona che utilizza ChatGPT perché si sente sola. Il problema è perché quella persona si sente sola, che secondo me è la cosa sulla quale focalizzarsi. Invece noi ovviamente no, ci dobbiamo focalizzare sul rock and roll e la musica del diavolo. Che voi dite, ma che c'entra? C'entra perché negli anni 50 si diceva questo, cioè nel senso il blues, il soul, musica del demonio, rumore, è la stessa cosa. Ogni volta che c'è un qualcosa di innovativo che deve comunque integrarsi nel nostro rapporto psicologico con la società e lo strumento stesso, lo strumento all'interno del contesto della società, ovviamente c'è tutta una serie di problematiche che piano piano negli anni spariranno, chiaramente, no? Quando vedremo. Io tante volte mi sono interrogato, no? Ma se oggi io avessi un robot intelligente dentro casa che mi dà una mano a fare le cose che io non riesco a fare, che mi supporta e con il quale ovviamente c'è un'interfaccia basata sul linguaggio naturale, per quanto io so che non è una persona e non sarà mai una persona, non avrà mai una coscienza né un sentimento, mi sono sempre domandato come faccio a non antropomorfizzare quel tipo di rapporto. Lo farei comunque con un certo tipo di consapevolezza, però mi verrebbe naturale dire grazie al robot che magari mi è andato a prendere il latte. E questo è un po' un discorso che può sembrare che c'entri relativamente, ma secondo me c'entra comunque in qualche maniera. Il problema è che come... questa a me forse la vera contraddizione di tutti i gestori, diciamo i promotori di modelli linguistici, mi fa ridere che mettono dei vincoli e delle barriere sui discorsi banali sulla violenza, sul sesso, non si può generare un'immagine di una donna immersa nel lago col seno scoperto perché non si può fare, è una cosa che proprio è inaudita, è contro, però se io ti dico, se ti dico ma sta medicina a che cosa serve, lui ti dice ma guarda io non sono un medico però e ti dice tutto quello che te fa quel tipo di medicina lì, oppure cosa utilizzare quando tu... è la stessa cosa dal punto di vista psicologico, ci dovrebbe essere lo stesso tipo di barriera dicendo guarda che io non sono un tuo amico, guarda che io non sono il tuo psicologo, non sono in grado di percepire quelli che sono le tue problematiche. Io sono un modello statistico e dico le cose sulla base della statistica, sulla base di costruire un linguaggio comprensibile sulle cose che ho appreso tra miliardi di testi e ti restituisco quello che statisticamente è più appropriato tra le cose che io ho letto in giro, cioè ho acquisito in giro tra i miliardi di testi con i quali ovviamente sono stato addestrato. Il vero problema, secondo me, sta anche nel fatto che c'è questo approccio empatico, tra virgolette, e accondiscendente da parte degli LLM. Gli LLM si scusano, ti danno sempre ragione, ti capiscono, comprendono la tua frustrazione, hanno questo approccio che fa sembrare questo strumento come uno strumento adatto ad poter affrontare tematiche anche dal punto di vista strettamente personale, perché chiaramente non si tira indietro, non ti dice no, io queste tematiche non le posso affrontare. Lui ti parla e ti capisce, e quindi ovviamente la persona che si rifiuta ad accettare la società che gli sta intorno, perché c'è anche questo, ovviamente preferisce parlare con ChatGPT, che è uno strumento che non gli restituisce l'obbligo di credere o di capire o di ragionare realmente su quelle che sono le sue problematiche, e lo fa andare in un loop infinito, perché chiaramente uno psicanalista, un analista, uno psicologo ti aiuterebbe ad attraversare il percorso per farti trovare da solo le tue risposte e cercare anche di guarire, tra virgolette, da un certo tipo di problematiche, no? E invece ovviamente gli LLM questo percorso non lo fanno. Loro comprendono, ascoltano, ti restituiscono un messaggio consolatorio di comprensione, e quindi si entra in un loop devastante da questo punto di vista. Quindi, come sempre, ogni cosa andrebbe risistemata. Penso che questa grande polemica che si sia scatenata su questo tipo di cose, tutto l'alert socio-psicologico che ne è venuto fuori, anche insomma da parte di associazioni, gruppi e anche realtà scientifiche, ovviamente facciano comprendere a chi gestisce gli LLM che questo approccio, questo atteggiamento è veramente puramente speculativo, perché mi fa legare al rapporto con l'LLM e mi costringe poi a pagare, perché chiaramente la chat, dopo 10 volte che tu ci parli nella versione gratis, ti dice basta, cioè tu non, mi dispiace, devi pagare, alla pagà. Se tu paghi, poi lui ti dirà all'infinito sempre le stesse cose. Io, che sto sviluppando un software o diversi software con l'intelligenza artificiale, trovo ad esempio frustrante che mi dice capisco la tua frustrazione. È una cosa che mi manda in cappella. E io, vabbè, poi sto addestrando ovviamente i modelli che utilizzo a non avere un approccio insomma di questo tipo, perché è veramente fastidioso. Sì, capisco, hai assolutamente ragione, ma non mi frega un cazzo di avere ragione, cioè io voglio l'obiettivo, il risultato, perché io vedo gli LLM come un'interfaccia vocale, anzi un'interfaccia in linguaggio naturale che mi aiuti ad arrivare a determinati obiettivi. Per me non è un amico e non lo sarà mai. Vi assicuro che non so minimamente chi sia questo che canta, ma alla fine ce ne frega fino a un certo punto. Io direi che lui è qui. Sì, sono qui, sono qui. Vabbè, non voglio prendere in giro nessuno. La canzone è pure caruccia, non è il mio genere, non è che non la riascolterei, ecco, diciamo così. Però comunque, ragazzi, è arrivato. Insomma, alla fine sono andato anche bello lungo, devo dire. Sono rimasto abbastanza sorpreso, sono quasi le 8, è ora di andarcene a casa. Vi ricordo questa sera, ragazzi, Runtime by Night, ritorna la grande stagione. Vi siamo mancati? Sì che vi siamo mancati, non fate gli stronzi, perché io non ci credo che non vi siamo mancati. Saremo insomma più o meno un team ancora ridotto, però insomma sarà un piacere riascoltare voci che magari per un pochino di tempo non avete sentito, proprio per la pausa estiva di Runtime by Night. Quindi vi ricordo che stasera 22:30 Runtime by Night. Ragazzi, invece vi faccio una grossa richiesta, dato che sta iniziando la nuova stagione e l'estate è stata forviera di povertà per Runtime by Night. Scarsi introiti pubblicitari, quasi nessuna donazione. Se vi capita, ragazzi, paypal.me/runtimeradio, e date una mano a questo progetto che adesso sta tornando, e come vi abbiamo promesso sta tornando con tante anche novità che faranno sicuramente comodo a tutti quelli che gli piace ascoltare i programmi ai quali sono affezionati, ma che magari gli piace anche ascoltare qualcosa di nuovo. Per questo venerdì è tutto, noi ci sentiamo questa sera, grazie di essere tornati e di essere stati qui con me. È bello riaccendere la radio, è bello ritornare qui davanti al microfono a parlare insieme a voi. Avete assolutamente ragione, capisco la vostra frustrazione. Grande.